voto, vero Deborah Rosciani? Sì, le stiamo monitorando da qualche giorno e peraltro anche noi monitoreremo domani a Salvadanaio con uno speciale la reazione dei mercati finanziari rispetto alla scelta da parte della popolazione americana di un candidato piuttosto che di un altro. Oggi la borsa tenta di recuperare qualcosa dopo i cali di ieri, abbiamo mezzo punto percentuale abbondante di progresso su tutti i listini del vecchio continente, per Milano più 0,66%, ma sembra proprio che gli investitori siano riluttanti ad assumere, a prendere delle posizioni più pesanti alla vigilia di queste presidenziali americane. In generale, gli operatori sperano ed auspicano sempre una vittoria chiara, netta, un orientamento deciso da parte degli elettori, indipendentemente da quale sia il vincitore, ma soprattutto dovremo capire quale sarà l'orientamento del Congresso americano per poi prendere appunto le misure economiche necessarie a rilanciare l'economia statunitense, ad abbattere la disoccupazione che è il grande tallone d'Achille di entrambi i candidati. Milano, dicevo, guadagna lo 0,6%, l'euro sul dollaro recupera e ritorna sopra quota 1,28, spread ballerino stamattina fra BTP e Bund perché è arrivato a scendere sotto i 350 punti base per poi risalire. Ieri sera la chiusura è stata 357, anche ieri sera Wall Street, ricordo, ha chiuso con un rialzo di circa lo 0,15%, terminando la giornata sui massimi appunto che aveva raggiunto. Questo è il quadro della vigilia appunto di mercato per le presidenziali americane, per ora è tutto. Grazie alla nostra Deborah Rosciani. Dunque, lezioni fondamentali anche ai fini della crisi europea. In Europa i riflettori restano ancora puntati sulla Grecia, oggi e domani paralizzata da uno sciopero generale. Le piazze di Atene sono brulicanti, migliaia anche oggi per la quarta volta dall'inizio dell'anno hanno incrociato le braccia per dire no alle nuove misure di austerità, altri tagli chiesti dall'Europa per saldare i conti e versare nelle vuote casse dello Stato la nuova tranche di aiuti da 31 miliardi e mezzo. Uno sciopero di 48 ore che di fatto interessa tutte le categorie: scuola, sanità, trasporti, banche, ministeri, amministrazioni locali, farmacie, avvocati, magistrati, giornalisti. Per 3 ore, dalle 10 alle 13, si sono fermati anche i controllori di volo degli aeroporti, isolando i cieli del paese. E nelle stesse ore, alle 11 del mattino, è cominciato l'iter parlamentare che sancirà i nuovi tagli di bilancio per 13 miliardi e mezzo. Il dibattito proseguirà in aula domani mattina, con il voto atteso nella nottata tra mercoledì e giovedì. Domenica poi ci sarà da approvare il bilancio con un voto tutt'altro che scontato. In un paese sempre più alla disperazione per i troppi crediti della sanità greca, da 2 giorni le multinazionali non forniscono più neppure i farmaci anticancro agli ospedali pubblici. I malati possono comprarseli in farmacia, ma trovare i soldi per molti non è facile. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo all'Italia, alla politica interna, con le parole di Monti dall'Asia. Un Monti che ha parlato ovviamente anche del voto in America, ma non solo, ha parlato anche di legge di stabilità, sulla quale ci sono novità anche oggi. Ci colleghiamo in diretta con Roma con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Sulla sfida Obama-Romney, il Premier spiega che chiunque vinca le elezioni, l'attenzione sui temi della finanza pubblica americana resterà grande, soprattutto perché è ancora forte la propensione nei portafogli internazionali a tenere grandi quantità di debito pubblico di Washington. Quindi la politica italiana, con in primo piano la legge elettorale, tecnicamente, spiega Monti, il governo potrebbe intervenire per modificare il sistema di voto, ma è auspicabile che a farlo siano i partiti. Il Presidente del Consiglio si dice quindi soddisfatto per il provvedimento sulla corruzione. Quanto all'intesa sulla produttività, rivela la trattativa in un momento cruciale. Il capitolo crisi economica, serve tempo per uscirne, dice il professore, ma non so se serviranno 5 anni, come detto dalla Merkel. Poi le modifiche alla legge di stabilità. Il Presidente del Consiglio spiega che c'è pieno consenso col Ministro dell'Economia Grilli e non serve un vertice di maggioranza. Sul provvedimento economico intanto continua il lavoro in Commissione Bilancio. Da questa è arrivato lo stop all'emendamento che ampliava le garanzie per i lavoratori esodati. Infine il monito della Corte dei Conti sui fondi pensione INPS, misure di risanamento sono indilazionabili. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo. Le primarie del centro-sinistra, anche gli altri candidati dicono fin d'ora che se perdono non prenderanno posti da ministro e non andranno nemmeno in Parlamento. Matteo Renzi lo ha ribadito questa mattina ai nostri microfoni, ospite di Alessandro Milan. Toccati in molti temi, anche il tema D'Alema. Un caffè con D'Alema lo berrebbe? Sì, magari lo preparo io, ma sì. Ha paura che gliela avveleni? No, no, dico, non vorrei. Il caffè no, non vorrei, si indona, non lo so. No, questo lo dice lei, perché è un maligno, è un malevolo. Dico soltanto che quando il presidente D'Alema, cui va la mia stima, io guardi, beh, non ho mai fatto una polemica con D'Alema, ho soltanto detto che per me la generazione di capito, di ma D'Alema perché non prepara lei deve, lo preparo io, perché D'Alema ha detto una frase che mi ha molto colpito. È il presidente della commissione servizi segreti, ha detto quel ragazzo si farà male. Appunto, scusi, vede che io ci penso male. Lei è un maligno malevolo, lo preparo io per un atto di rispetto per l'anzianità. Ah, va bene, va bene. Ma come maligno lei, guardi. No, per carità. E con Rosi Bindi? Sì. No, l'ho già preso con D'Alema, poi due caffè divento nervoso. Gesti, va bene. Così allora Renzi ai nostri microfoni, sentiamo sempre sul fronte primarie dalla nostra Elisabetta Fiorito cosa invece hanno detto oggi gli altri candidati alle primarie, quelle del centro-sinistra, poi ci sono in ballo anche le primarie del centro-destra, le primarie del PDL. Elisabetta in diretta. Sì, ricordiamo che le primarie del PD e del centrosinistra si svolgeranno il 25 novembre, proprio all'interno del Partito Democratico parla questa mattina il segretario per Luigi Bersani, che ricordiamo ieri ha detto non mi candiderò a segretario di nuovo, ma questa volta non parla di primarie, bensì di legge elettorale, imperdonabile se non darà la governabilità, dice Bersani, sulla legge elettorale non ci devono essere colpi di mano da parte di maggioranze spurie in Parlamento. Bersani poi sarà nelle Marche il 16 proprio per la sua campagna elettorale per le primarie, ma riguardo alla competizione del centrosinistra, Nichi Vendola risulta il più votato sul sito gay.it. C'è anche la competizione nel PDL e qui si teme il 16 dicembre, lo ricordiamo, per l'affluenza alle primarie. Oggi il segretario Angelino Alfano ha convocato una riunione per decidere le regole, per Fabrizio Cicchitto, capogruppo PDL alla Camera, le regole devono essere chiari, ma sentiamo proprio Cicchitto. Siamo impegnati a definire un sistema di regole estremamente semplice che consenta una larga partecipazione popolare e anche un retroterra per coloro che si presentino in modo tale da evitare la fiera delle vanità e contemporaneamente una modifica, partire di qui per modificare il partito. Ecco, sulla fiera delle vanità ovviamente il riferimento a Daniela Santanchè sembra chiaro, per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta, e la politica è anche le prese ancora con il caso Pomigliano, tutti chiedono a Lingotto di fare un passo indietro, ricompattato il fronte sindacale. Tra qualche secondo ascolteremo il servizio relativo alla Fiat al caso Pomigliano, eccolo. Un passo indietro sui licenziamenti di Pomigliano. Lo chiedono a gran voce tutti i sindacati in un clima di ritrovata unità. Un passo indietro del Lingotto sulla decisione di mettere in mobilità 19 operai dopo che la Corte d'Appello di Roma aveva imposto la riassunzione di lavoratori con tessera a fiomme esclusi nel passaggio alla NewCo. Il confronto tra sindacati e aziende è fissato per oggi alle 15 presso la sede dello stabilimento Campano. Intanto il leader della CISL Bonanni avverte che se non ci saranno rassicurazioni partiranno i ricorsi, ma chiede anche che la fiomme faccia un passo avanti e torni a riunirsi con gli altri sindacati. Duro il commento della leader della CGIL Camusso. Io credo che non esistano precedenti di una scelta di questo tipo e forse questo parla della Fiat più di tanti altri ragionamenti che sono fatti, un'idea di comando, di divisione, di rapporto sempre autoritario. Invita alla mediazione invece il segretario nazionale FIM CISL Ferdinando Uliano, responsabile settore auto. Noi adesso utilizzeremo il confronto, c'è aperto ovviamente una valutazione anche dal punto di vista legale sul fatto se si possano attuare procedimenti di questo tipo a seguito di una sentenza. Inviti alla Fiat a non esasperare il clima arrivano anche dalla politica. No a contrapposizione, dice il leader del PD Bersani, secondo il quale serve unità nel mondo del lavoro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E tra breve vi ricordo la puntata di oggi di Italia in Controluce, si parla dell'alluvione di Vicenza di 2 anni fa, in conduzione Maria Piera Ceci e Maria Luisa Pezzali. Maria Luisa è in diretta con noi. Maria Luisa. Buongiorno Anna Rita, scusate ci sono stati problemi tecnici con gli studi, buongiorno agli ascoltatori. Sì, a 2 anni di distanza dall'alluvione che in Veneto, lo ricordiamo, causò 3 morti e milioni di danni, abbiamo voluto verificare che cosa è stato fatto dal punto di vista della messa in sicurezza del territorio, dei risarcimenti e dei finanziamenti per le opere da realizzare. Lo facciamo nei giorni in cui sta per scadere il mandato del commissario per l'alluvione e nei giorni regione in cui il fiume Bacchiglione, il sorvegliato speciale per così dire dal 2010 in avanti, è tornato a gonfiarsi per le piogge delle ultime ore. Se dovesse continuare a piovere come due anni fa, si chiedono i cittadini, che cosa succederebbe? Noi lo abbiamo chiesto ad un esperto, Andrea Crestani, che è il direttore dell'Unione Veneta Bonifiche, l'associazione che raggruppa i consorzi di bonifica del Veneto. È partito un piano prima di monitoraggio di tutto il territorio che ha previsto una serie di grandi opere, casse di espansione, quindi vuol dire bacini di contenimento delle piene. Grandi opere necessitano di tempi anche lunghi, quindi ad oggi queste grandi opere sono in una fase di inizio lavori. È logico che se si dovesse ripresentare fenomeni alluvionali, il rischio potrebbe ripresentarsi. Il rischio dunque potrebbe ripresentarsi. L'intervista completa tra poco appunto in Italia in Controluce. Abbiamo sentito anche il presidente di Confindustria Vicenza, Giuseppe Gigliotto, per quanto riguarda i risarcimenti alle imprese. Avremo in diretta il sindaco di Vicenza, Achille Variati. A tra poco. Ancora una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. La cronaca, come detto dunque in questa seconda parte, a partire dal Viminale, ancora nella bufera per il Corvo. Ne ha parlato di nuovo oggi il capo della polizia Manganelli a margine dell'81esima Assemblea Generale dell'Interpol. Sentiamolo. Io mi ricordo il primo giorno che fui nominato capo della polizia, dissi: aspiro a una sola cosa, che si possa dire che la polizia è un contenitore di vetro, cioè tutti possano vedere dentro. Noi facciamo le nostre cose bene, male, qualcuno dirà forse potevano esserci capi della polizia più bravi, più adatti, più... però nessuno dovrà dire il capo della polizia è un imbroglione, come in effetti devo dire da 38 anni che faccio questo lavoro non ho mai sentito una cosa del genere. Novità ancora per la cronaca, intanto da Torre Annunziata vicino Napoli, sul caso, lo ricorderete, di Angela Celentano, la bimba scomparsa 16 anni fa sul Monte Faito. E su una foto, quella arrivata dal Messico e che ritrarrebbe una ragazza che si definisce Angela, che si è concentrato il vertice che si è tenuto oggi in procura. Hanno detto che c'è qualche elemento di compatibilità con Angela, ha spiegato il legale della famiglia Celentano. E parliamo di trasporti. Adesso purtroppo dobbiamo parlare ancora di un viaggio da dimenticare, un viaggio in treno. È arrivato intorno alle 4 di questa mattina alla stazione di Roma Termini il treno Genova-Roma, partito alle 15 di ieri dal capoluogo ligure. Era stato deviato sulla linea per Parma a causa di un guasto alla linea elettrica. Al microfono di Katia Caramelli, il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. Ci sembra che in un paese civile, se un treno fa quel ritardo, non basta certo restituire i soldi del biglietto e chiedere scusa, ma bisogna vedere i danni che ciascun passeggero ha avuto, che possono andare da contratti perduti, lavoro perduto, appuntamenti perduti, e quindi va quantificato un danno individuale per ciascuno di questi passeggeri. Pensate a una class action? Azione di classe o anche azione collettiva. Adesso vedremo quanti manifesteranno l'intenzione di chiedere i danni, vedremo cosa dirà Trenitalia, vedremo cosa dice anche il governo, perché Trenitalia è sottoposto alla regione e al governo. E noi subiamo su questi treni continuamente ritardi che poi adesso vengono rimborsati in parte solo dopo 60 minuti. Cioè immaginiamo un treno che impiega 3 ore per andare da Roma a Milano. Io ho un risarcimento solo se arriva dopo 4 ore, se arriva dopo 3 ore e 59, no. La legge di stabilità è in buone mani, è stata seguita nella navigazione parlamentare dal ministro dell'economia in piena e frequente consultazione con me, lo ha detto il premier Mario Monti parlando a Laos, dove si trova e dove lo abbiamo sentito anche durante il nostro collegamento con Roma. Seguirà l'esito delle elezioni americane, elezioni con le quali abbiamo aperto questa edizione di GR24. Chiudiamo parlando di calcio, perché questa sera c'è una partita importante per il Milan, ma soprattutto per il futuro di Allegri: vincere con il Malaga per non compromettere il cammino in Champions League. Questo è l'imperativo del Milan, che appunto questa sera ospiterà il Malaga, che è una squadra che comunque il Milan ha già battuto. Vedremo stasera quale sarà l'esito di questo incontro. Tra pochissimo riflettori sugli spettacoli, e c'è una notizia di spettacolo importante che è arrivata dalla Sicilia. Si erano diffuse già voci nei giorni scorsi. Franco Battiato è stato confermato poco fa assessore della regione siciliana. Lo ha annunciato in una conferenza stampa. E allora io vi lascio al nostro GR Spettacoli per questa edizione di GR 24. È tutto, la prossima alle 14. GR 24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buona giornata da Adriana Fracchi e ben ritrovati per una nuova edizione di GR Spettacoli. Sarà Franco Battiato, l'assessore alla cultura della nuova giunta regionale siciliana. Lo ha annunciato ufficialmente il neo governatore eletto Rosario Crocetta durante una conferenza stampa a Catania, alla presenza dell'artista. È un'occasione unica per contribuire alla crescita della Sicilia e nell'isola si avverte una forte esigenza di cambiamento. Per questo, se posso dare una mano, la do volentieri. Questo era stato il commento qualche giorno fa di Battiato quando cominciavano a circolare delle voci su una sua possibile nomina. Io ci sono il grande tributo della musica italiana a Giorgio Gaber a quasi 10 anni dalla sua morte. 50 canzoni interpretate da 50 cantanti. Svelata poco fa in rete la lista degli interpreti da Celentano a Cremonini, dalla Pausini a Gianni Morandi. La figlia di Giorgio Gaber, Dalia Gaberschik, al microfono di Marta Cagnola. Devo dire che sono molto felicemente sorpresa perché fare il bilancio di questi 10 anni ha significato ritrovare nella memoria delle collaborazioni veramente molto affettuose di persone che hanno detto io ci sono, proprio come il titolo del disco dice, per affetto, per amore, per stima autentica nei confronti di mio papà. Questo insomma mi inorgoglisce e credo che gli farebbe molto piacere. Questi 50 brani di mio papà sono in qualche maniera tutti inediti, tutti nuovi, perché non sono mai stati incisi. Parleremo ampiamente di questo tributo a Giorgio Gaber in anteprima su Radio 24 con uno speciale in diretta la sera del 9 novembre. Sono bastati pochi giorni di prevendita perché andassero esauriti tutti i biglietti per l'apertura straordinaria della Casa di Lucio Dalla a Bologna, resa possibile dalla delegazione del FAI e dagli eredi di Lucio Dalla. Oltre 3.500 persone tra il 30 novembre e il 2 dicembre renderanno così omaggio al grande musicista e daranno una mano alle popolazioni colpite dal terremoto. Il ricavato servirà infatti per la ricostruzione di Finale Emilia. Tornano gli Aerosmith, esce oggi Music from Another Dimension, il 15° album in studio, il primo dopo 11 anni, con 15 brani totalmente inediti. Gli Aerosmith hanno venduto oltre 150 milioni di album in tutto il mondo e sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. Bon Jovi tornerà in tour nel 2013 con date negli stadi e arene di tutto il mondo. Il Bon Jovi Because We Can The Tour partirà a febbraio in Nord America per proseguire poi in Europa, Asia, Africa, America Latina e Australia. Unica data italiana il 29 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Roberto Bolle, étoile del Teatro La Scala di Milano e principal dancer dell'American Ballet di New York, ha ricevuto ieri dalle mani del prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi l'onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il titolo, primo fra gli ordini nazionali, gli è stato conferito dal Presidente della Repubblica Napolitano in virtù dei meriti acquisiti verso il Paese in campo culturale. Dall'8 all'11 novembre, negli spazi dell'ex manifattura tabacchi di Torino, prima edizione di Fotissima Art Fair, la fiera d'arte italiana che si occupa esclusivamente di fotografia. Telemaco Rendine, ideatore dell'evento e presidente della Fondazione Artevision. Noi facciamo solo esclusivamente fotografia, che sia analogico, digitale o addirittura di vetro, come le dico io, cioè le prime lastre del 1800, però comunque siamo solo con fotografia. Perché è una particolarità. Non siamo una fiera d'arte generalista, ecco. È tutto per questa edizione di GR Spettacoli. Un saluto da Adriana Fracchia.